America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24, grande nottata degli Oscar. Com'è andata? Wow, putain génial, merci, formidable, merci beaucoup, I love you. Victoire, génial, vittoria, miglior attore, miglior regia, miglior film, miglior colonna sonora, insomma grande trionfo di The Artist, il film francese, un film muto, in bianco e nero, che sembrava così l'idea stravagante di qualcuno che avesse un progetto impossibile, e invece il film è stato bellissimo, un film che ci ha portato indietro nel tempo, in fondo è stato il primo premio Oscar a un film muto, perché i film muti non l'avevano mai avuti. Vi dicevo, migliore colonna sonora. Vittoria francese, dunque un vero e proprio Amplein francese, perché qui non stiamo parlando soltanto del film The Artist, appunto un film francese, vi dicevo, che ha vinto di tutto 5 premi Oscar, ma in generale una straordinaria affermazione a questi Oscar a Hollywood della Francia, nel senso più lato del termine, perché Martin Scorsese, beh certo Martin Scorsese è un regista americano, italo-americano, però il film Hugo è un film che è tutto ambientato in Francia, in una stazione, ricorda le gesta di Méliès, che fu uno dei grandi innovatori del cinema, che lavorò coi fratelli Lumière, dunque di nuovo uno sguardo al passato, di nuovo un film ambientato a Parigi, ambientato in Francia, come è stato ambientato in Francia Midnight Paris, il film di Woody Allen, che ha vinto l'Oscar per la migliore sceneggiatura. Dunque Parigi, la Francia, il cinema francese ha davvero trionfato in questa edizione degli Oscar. Brad is a manager caught in a riddle. Johnny used to have much more to his middle. It's great. Ma come è cominciata la serata? Billy Crystal, l'avete sentito? Il grande attore ha presentato gli Oscar per la nona volta. Cosa dice in questa battuta? Dice, beh, divertitevi, divertitevi, perché in tempi di crisi non c'è niente di meglio che vedere milionari che si scambiano statuette d'oro. When they called my name, I had this feeling I could hear half of America going, oh no, oh come on, why her again, you know? Meryl Streep, migliore attrice per la sua interpretazione in Iron Lady, il film su Margaret Thatcher, devo dire, ha fatto un discorso di ringraziamento molto toccante. Intanto è stata spiritosa, perché ha detto, appena è salita sul palco, ha detto, beh, quando ho sentito il mio nome ho pensato, ho sentito che metà dell'America stava sospirando, oh no, ancora di nuovo lei. In effetti Meryl Streep è al terzo Oscar, ha avuto 17 nomination, un record, e poi così è stata molto nostalgica, ha detto, comunque io vi ringrazio, sono contenta, questa sarà l'ultima volta che salgo su questo palco. Ha ringraziato il marito, il suo truccatore, il parrucchiere, insomma è stato davvero un momento toccante. Altri premi: miglior attore non protagonista, Christopher Plummer, l'attore inglese per Beginners, pensate, ha vinto l'Oscar a 82 anni, è l'attore più anziano che ha vinto un Oscar. La sua battuta è stata, dice, non capisco, l'Oscar ha soltanto 2 anni più di me, eppure ci siamo incontrati soltanto ora. Miglior attrice non protagonista, Octavia Spencer, ecco, questo è stato un omaggio a The Help, un film ambientato negli anni 50 che racconta delle tensioni fra donne bianche e donne di colore, siamo ancora in atmosfera di segregazione, e ricevendo la statuetta la Octavia Spencer ha detto, beh, ringrazio l'Academy per avermi premiato con l'uomo più sexy della serata, appunto Oscar. Delusione invece per George Clooney, che nel film The Descendants, un film devo dire davvero molto bello, lui poi ha interpretato il ruolo in modo straordinario, ecco, lui non ha preso un Oscar, né un Oscar lo ha preso il suo film. Veniamo a noi, veniamo all'Italia, perché è di questo poi che vorrei parlare. Intanto, beh, su un fronte abbiamo resistito. La moda italiana non ha fatto male, anzi ha fatto benissimo, perché ha trionfato in qualche modo in questa serata. Armani, Valentino, Alberta Ferretti, Giambattista Valli, anche Gucci, che ha vestito Cameron Diaz. Certo, Gucci è proprietà francese, quindi non sappiamo se è proprio francese o italiana. Una piccola delusione perché Enrico Casarosa, un amico, perché lo abbiamo intervistato qui ad America 24 per questo suo cortometraggio La Luna, era nominato per l'Oscar, non ha vinto. Hanno tenuto altissimo l'onore italiano Dante Ferretti, Francesca Lo Schiavo per la migliore scenografia per Hugo, appunto il film di Martin Scorsese. Per Ferretti è il terzo Oscar, un record per l'Italia, dunque abbiamo salvato l'onore. Resta il fatto che la Francia ha dominato. Francese, era il caso di farvelo sentire visto il successo della Francia a questi premi Oscar. Ho con me in linea Giampaolo Letta, amministratore delegato di Medusa, la casa di produzione cinematografica, la più importante casa di produzione cinematografica italiana. Buongiorno Giampaolo. Buongiorno, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Eccoci, allora, intanto grande trionfo della Francia e viene fatto di chiedersi, e l'Italia? L'Italia è assente da un po' all'Academy Award Ceremony, l'ultima volta è stata presente con una nomination, La bestia nel cuore, e l'ultimo Oscar, ahimè, quello della Vita è bella di Benigni. Ecco, però qui, al di là dell'Oscar e del più importante premio cinematografico, c'è una riflessione da fare. Cioè, noi abbiamo avuto dei film oggi di produzione italiana che molto spesso sono così delle commedie molto leggere, molto italiane, molto chiuse nel nostro modo di essere, e poi alcuni film così un po' introspettivi, un po' difficili, che di nuovo non sono delle produzioni industriali hollywoodiane. Cosa ci manca? Perché ci manca una gamba, o no? Manca sicuramente una internazionalizzazione, cioè una visione globale di come si produce cinema, cosa che ai francesi, la cinematografia francese sta riuscendo molto bene grazie ad un lavoro iniziato tanti e tanti anni fa. Beh, però manca anche una sensibilità del pubblico, perché se non sbaglio poi gli italiani vanno poco al cinema, cioè in Francia 220 milioni di spettatori, in Italia soltanto 105 nel corso di un anno, quindi stiamo parlando del doppio. Ecco, perché non si va al cinema? Loro hanno una visione probabilmente molto più integrata, più industriale, ma sempre con una forte connotazione culturale. Hanno risorse, hanno strutture dedicate e stabilmente, vorrei dire, dedicate a far sì che l'industria cinematografica sia una vera e propria industria. Da noi, se vogliamo, è lasciato un po' più al caso, la buona volontà di tanti soggetti, di tante aziende che lavorano molto bene, manca la struttura, farne proprio una sorta di sistema industriale vero e proprio. Qual è oggi il settore cinematografico? Certo, sì, perché parliamo poi di un'industria, di un settore industriale. Noi abbiamo avuto una grande scuola, Rossellini, Fellini, Bertolucci. Ecco, dov'è questa scuola? C'è una nuova generazione? Una nuova generazione anche di autori, di produttori, di distributori. Questo meccanismo lo ha capito circa una decina di anni fa, 7-8 anni fa, e sta lavorando per far rinascere il cinema italiano e farlo ritornare nuovamente grande. Ricordava lei giustamente il maestro Bernardo Bertolucci, che è tornato dietro la macchina da presa e che sta ultimando il suo film, il film che si chiama Io e te, tratto da un bellissimo libro di Niccolò Ammanniti. Una storia tutta consumata all'interno di una cantina, di uno scantinato di un edificio, e vede protagonisti due ragazzi, un adolescente ed una ragazza un po' più grande. Non voglio svelare nulla, chiaramente, se non quella di un ritorno di Bernardo Bertolucci con grande entusiasmo, grande passione, grande sprint alla regia di un film che sicuramente ci riserverà tante bellissime sorprese. Ecco, un'ultima cosa, è stato un Oscar molto nostalgico questo, perché tutti questi film, lo dicevamo prima, hanno una connotazione di guardare indietro, addirittura al cinema muto. E come mai c'è questo umore di rifugio nel passato? Perché siamo in crisi? Perché negli anni 30 anche c'era la crisi? Qual è la sua sensazione? Beh, sono in effetti dei pensieri, dei parallelismi molto molto curiosi. Io mi sono chiesto, quando sono andato a vedere The Artist, devo dire che ho apprezzato moltissimo, mi sono chiesto la faccia del produttore quando il regista gli ha proposto di fare nel 2011 un film in bianco e nero e muto, perché mi sono messo nei suoi panni e mi sono chiesto cosa avrei risposto, se magari fosse diventato pazzo o cosa. In realtà questo è il bello del cinema, che fa sognare con storie del futuro, storie del passato. In questo caso io credo che più che di nostalgia si tratti di un certo gusto per il bello, per le musiche, per gli arredamenti, per le scenografie, un insieme di emozioni che solo il cinema sa dare, che sa ricreare. E quindi credo che questa sia stata la carta vincente. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Dunque, abbiamo parlato di nostalgia, di uno sguardo al passato. Anche noi vogliamo restare nostalgici e dunque vi facciamo ascoltare la canzone che l'Academy ha scelto durante la serata per celebrare i grandi artisti scomparsi, di Louis Armstrong, What a Wonderful World. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. Da Roma, dove mi trovo adesso per qualche giorno, è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24.